Buonasera a te e a tutti. Ecco, siamo felicissimi di averti qui ancora stasera per continuare questa missione così importante di aiutarci a meditare sui misteri del Santo Rosario, tanto più che fra pochi giorni, lunedì, inizierà proprio il mese del Rosario, vero? Certo, il mese di ottobre è dedicato al Rosario in particolare, sì. Allora, ecco, stasera mi pare che ci farai meditare sul quarto mistero della gioia, vero? È proprio così, ecco. Continuo uno alla volta e mi soffermo sul quarto mistero della gioia. Benissimo, a te la parola. Benissimo, grazie Dontino. Allora, effettivamente, come ho fatto le altre volte, vi ricordo semplicemente all'inizio di questa mia meditazione che mi rifaccio ad alcuni brani che avevo scritto in un libretto che si chiama Contemplare Cristo con gli occhi di Maria, i misteri del Rosario meditati, però poi non mi fermo a quelle considerazioni che vi leggerò, ma faccio qualche altra considerazione in modo da dare molto materiale, quello che posso, perché tutti noi quando recitiamo il Rosario nei misteri gaudiosi e arriviamo al quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Madonna, possiamo avere nella mente, nella memoria, quell'episodio narrato dal Vangelo e poi avere quindi la possibilità di applicarlo a noi stessi e di pregare insieme con tutta la Chiesa. Allora, io volevo solo inquadrare all'inizio brevemente questo episodio che leggiamo del Vangelo di San Luca, sapendo che la Madonna e San Giuseppe vanno al Tempio a presentare Gesù e, come dice l'Evangelista, obbedendo alla prescrizione della legge di Mosè che diceva di offrire a Dio il primogenito. E poi allo stesso tempo diceva alla madre che dopo 40 giorni doveva andare al Tempio e fare una purificazione di tipo rituale. E certo, questo riferimento nell'Antico Testamento è legato anche in generale al peccato, quindi è un rito di purificazione di tipo rituale, quindi non intendeva neanche l'Antico Testamento che ci fosse una colpa morale, però è un concetto evidentemente per noi un po' difficile da capire, però è bello considerare che la Madonna e San Giuseppe sono perfettamente fedeli alla loro legge, alla legge del Signore, e la compiono con molta precisione. Allora, io, siccome, come ha ricordato Dontino, fra poco è il mese di ottobre, e in questo mese di ottobre, fra l'altro, comincerà anche l'anno della fede, che il Papa Benedetto XVI ha indetto proprio l'11 ottobre, e in questo anno della fede ci ha chiesto il Papa di rivisitare e utilizzare anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, vorrei leggervi brevemente quello, in un piccolo punto, quello che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice di questo mistero. Dice così: la presentazione di Gesù al Tempio lo mostra come il primogenito che appartiene al Signore. In Simeone e Anna è tutta l'attesa di Israele che viene all'incontro con il suo Salvatore. La tradizione bizantina chiama così questo avvenimento. È molto bello sapere che la tradizione bizantina chiama questo avvenimento l'incontro con il suo Salvatore. Gesù è riconosciuto come il Messia tanto a lungo atteso, luce delle genti e gloria di Israele, ma anche come segno di contraddizione. La spada di dolore predetta a Maria annunzia l'altra offerta perfetta e unica, quella della croce, la quale darà la salvezza preparata da Dio davanti a tutti i popoli. Allora, come ho fatto le altre volte, io offro 7 quadri, parto da un brano della scrittura e in questo caso è tutto il racconto del Vangelo di San Luca riferito a questo episodio diviso in 7 parti, e poi lo commento brevemente e vedo di trarne un frutto per me e per tutti voi. Il primo quadro lo potrei chiamare così: offrire a Dio se stessi e offrire i propri cari, e anche, mettendoci nei panni della Madonna e di San Giuseppe, i propri figli. Leggo da San Luca: quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Quel bambino è già tutto del Signore, anzi è lo stesso Signore, eppure Giuseppe e Maria non hanno dubbi nell'offrirlo a Dio. Lui e lei sono totalmente dedicati ai progetti di Dio e quel bambino è Dio stesso che si dona al Padre per la vita del mondo. Entrando nel mondo, Cristo dice: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Ogni cristiano nel battesimo viene offerto a Dio e, inserito in Cristo, diviene partecipe della sua vita e sacro al Signore. E alla fine della contemplazione del mistero, quando recitiamo il rosario, possiamo pregare con queste parole: Dio Padre, che hai voluto che il tuo figlio fatto uomo per mano di Maria e di Giuseppe fosse offerto a te come segno esterno della sua piena donazione interiore, concedi anche a noi, lungo le strade della vita, di dare testimonianza della consacrazione che il battesimo ci ha conferito nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, certo, quindi il primo pensiero che mi viene è proprio al nostro battesimo, al fatto che questa è la vera prima e più importante consacrazione del cristiano. Il cristiano è consacrato a Dio nel momento del battesimo ed è sufficiente questo essere di Dio per poter vivere da cristiani in mezzo al mondo lungo tutta la vita. Poi per qualcuno ci sono consacrazioni successive, come per esempio succede ai sacerdoti o ai religiosi, però per i cristiani comuni è sufficiente questo per considerarsi tutti del Signore, la consapevolezza di essere stati nel battesimo inseriti in Cristo, e molto spesso a ciascuno di noi è capitato, un po' come è capitato a Gesù bambino, di essere presentati dal papà e dalla mamma alla Chiesa. Nella loro fede noi abbiamo ricevuto il battesimo, questa consacrazione in Cristo. E un'altra annotazione che volevo lasciarvi, mi ha colpito molto nel rileggere questo brano del Vangelo, che dice San Luca: quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè. E però gli esegeti lì trovano una grande difficoltà, perché era solo la madre che aveva il compito di doversi purificare e il padre non era compreso. E allora discutono a chi si può riferire questo. E non si può riferire, dicono loro, al bambino, che assolutamente non ha bisogno di purificazione, poi non c'è motivo. Allora, alcuni pensano che si riferisca addirittura alla purificazione del popolo di Israele, però a me piace anche pensare, rileggendo anche le parole che vengono dopo, che in questo brano della purificazione, della presentazione di Gesù al Tempio e della purificazione di Maria, è molto presente il plurale, i verbi al plurale, cioè Giuseppe e Maria sono molto uniti. C'è solo un momento quando Simeone, lo vedremo più avanti, parla a tu per tu con Maria, si rivolge solo a lei, anche se possiamo pensare che Giuseppe ascolta. Però tante altre espressioni, ne ho contato circa 8 tra verbi e altre espressioni, si riferiscono a loro due insieme. Io penso che agli sposi che recitano il rosario insieme questa annotazione può aiutare molto, cioè pensare come Giuseppe è vicino a Maria, come Maria è vicino a Giuseppe, si sentono profondamente uniti, e questo quindi può diventare per noi una preghiera quando recitiamo questa decina del rosario nel quarto mistero gaudioso, la preghiera di poter essere tutti gli sposi cristiani così uniti come lo erano Maria e Giuseppe. E ancora un altro spunto da questo primo quadro è che noi stessi, per la vita cristiana quotidiana, possiamo vivere questa offerta di noi stessi a Dio, e anche frequente. E pensavo, guardate che se ci riflettiamo, noi questo lo facciamo quando siamo abituati all'inizio della giornata di offrire tutta la nostra giornata a Dio, stiamo offrendo la nostra vita. Quando andiamo a messa, di fatto ci sono delle preghiere bellissime, in particolare nelle preghiere eucaristiche, in cui noi chiediamo al Signore di metterci dentro, insieme con Cristo, nell'offerta che Cristo fa di se stesso al Padre. Per esempio, quando recitiamo, quando il sacerdote celebra con la preghiera eucaristica terza, dice: guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, ma a noi, che ci nutriamo del suo corpo e del suo sangue, dona la pienezza perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. Cioè, noi durante la messa ci stiamo offrendo, chiediamo al Signore di poterci mettere insieme con Lui e offrirci al Padre insieme con Cristo. Anche nella preghiera quarta, perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato suo Padre, lo Spirito Santo, Cristo, primo dono ai credenti. A tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Quindi noi abbiamo un'occasione bellissima nella messa di fare di nuovo quello che la Madonna, quello che Giuseppe ha fatto da bambino, quello che la Madonna e Giuseppe hanno fatto per lui, l'hanno offerto al Padre. E mi ricordo che San José María Escrivá, il fondatore dell'Opus Dei, in cammino, dice una frase così delle sue molto folgoranti: perché non ti dai a Dio una buona volta sul serio adesso? Ecco, qualunque momento della vita è valido, buono per poterci offrire al Signore di nuovo. Il secondo quadro lo chiamerei lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Ora, dice il Vangelo di San Luca, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Lo Spirito Santo ha lavorato per preparare l'incarnazione del Figlio di Dio, ha santificato uomini e donne che sono diventate figure del Messia venturo e ne hanno chiesto la venuta con preghiere perseveranti lungo i secoli. Li ha incoraggiati con tenerezza. Mi immagino che lo Spirito Santo gli abbia detto a Simeone, dopo una vita di intimità con lui: e la tua preghiera è stata ascoltata, il Messia verrà e tu lo vedrai, quei tuoi occhi lo contempleranno, non da straniero, le tue mani lo stringeranno. E quindi Simeone, che conosce bene lo Spirito Santo, si lascia guidare da lui, si lascia portare al Tempio. È interessante notare questa docilità allo Spirito Santo di quest'uomo grande e santo. E quindi lo Spirito Santo fa con lui per primo, possiamo dire così, e lo ha fatto tanto nell'Antico Testamento, ma lo fa con lui nel modo, per la prima volta, ecco, guida un uomo santo a conoscere Gesù, a vederlo con i suoi occhi e a dire a Gesù: ecco, è lui, guardalo. E Simone non dubita neanche un istante, prende tra le braccia il bambino che è il sogno di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, dei profeti, di Davide, suo padre, e con tutta la storia del suo popolo che gli scorre nelle vene, benedice Dio: quanti profeti re hanno desiderato vedere ciò che io vedo e non lo videro, può aver pensato. E noi, anche pregando lo Spirito Santo, possiamo dirgli: Dio Spirito Santo, che hai santificato Simeone nella sua attesa del Redentore e glielo hai indicato bambino, ispira anche a noi speranza per la realizzazione del tuo regno e aiutaci a vedere Gesù e a servirlo nelle persone che incontriamo, nelle vicende della nostra vita. A proposito di questo lasciare che lo Spirito Santo ci guidi, mi sono ricordato a proposito di un'altra data di ottobre, che il 6 ottobre prossimo saranno 10 anni dalla canonizzazione, del fondatore dell'Opus Dei, San José María Escrivá. Quel giorno Cardinal Ratzinger scrisse sull'Osservatore Romano un bellissimo intervento che intitolò proprio così: lasciar operare Dio. E diceva che questo è quello che aveva fatto questo santo moderno, no? E diceva: il teocentrismo di José María Escrivá coerente con le parole di Gesù, vale a dire questa fiducia nel fatto che Dio non si è ritirato dal mondo, che Dio opera adesso e noi dobbiamo soltanto metterci a sua disposizione, essere disponibili, capaci di reagire alla sua chiamata. E per me, diceva Cardinal Ratzinger, un messaggio di grandissima importanza. È un messaggio che conduce al superamento di quella che si può considerare la grande tentazione dei nostri tempi, la pretesa cioè che dopo il Big Bang Dio si sia ritirato dalla storia. L'azione di Dio non si è fermata al momento del Big Bang, ma continua nel corso del tempo, sia nel mondo della natura che nel mondo umano. E poi diceva anche che la santità non è fare cose, diciamo, difficili o cose, ecco, complicate, e si tratta di essere amici di Dio e di lasciare operare Dio nella propria vita. Diceva, la santità è questo contatto profondo con Dio, farsi amico di Dio, lasciare operare l'altro, l'unico che può realmente far sì che il mondo sia buono e felice. E quindi se José María Escrivá parla della chiamata di tutti a essere santi, mi sembra che nel fondo sta attingendo a questa sua personale esperienza di non aver fatto da sé cose incredibili, ma di aver lasciato operare Dio, e perciò è nato un rinnovamento, una forza di bene nel mondo, anche se tutte le debolezze umane resteranno sempre presenti. Ecco, io penso che da Simeone possiamo imparare questo lasciarsi portare da Dio. E il terzo quadro, e lo chiamerei così, guardare Cristo e parlare di Cristo anche a chi già lo conosce. E le parole di Simeone riportate da San Luca sono: ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. Aveva Gesù tra le braccia, e c'era la Madonna, Maria e Giuseppe che lo guardavano attoniti, e lui dice questa preghiera ad alta voce: perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. E il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. E vedere Gesù e contemplare il suo volto come scopo della vita, scoprire Dio e conoscerlo fatto uomo con volontà di salvezza. Simeone ha raggiunto il suo scopo. Il fine del cristiano è lo stesso e si compirà pienamente nell'eternità. La vita attuale è un cammino di crescita verso quella meta e deve servire a rivelare Gesù agli occhi degli altri, come Simeone che non si fa riguardo di parlare di lui a Maria e a Giuseppe che l'hanno tra le braccia. Il cristiano senza paura deve indicarlo a coloro che sono già cristiani e al mondo. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato il tuo figlio bambino a Simeone profeta, concedi anche a noi, per mediazione di Giuseppe e di Maria, di avere sempre davanti agli occhi Gesù, luce delle genti, per vivere ogni circostanza della nostra vita alla tua presenza e per la tua gloria. E io penso che, ecco, mi colpiva di queste parole di Simeone, anche quelle che dice dopo a Maria, scoprivo in queste parole di Simeone come quattro nomi in più che dà a Gesù. Gesù, il suo nome che gli aveva dato l'angelo e che Giuseppe e Maria gli danno dopo 8 giorni della sua nascita, però in questo momento Simeone lo chiama la tua salvezza, lo chiama luce per rivelarti alle genti, lo chiama gloria del tuo popolo, e poi con la Madonna lo chiama segno di contraddizione. Quanti sono i nomi di Gesù nella Sacra Scrittura? In modo particolare nel Vangelo, e a noi che amiamo Gesù, e quindi dobbiamo, insomma, ci fa piacere di conoscere tanti suoi nomi che sono rivelati, no? Allora, certo, guardare Cristo è un obiettivo anche per noi, cioè è l'obiettivo della nostra vita. E proprio ieri mattina il Papa, in una bellissima catechesi sulla preghiera, ci dava di nuovo un orientamento meraviglioso, dice come pregare, no? Dopo tante altre catechesi sulla preghiera, come lasciarsi formare dallo Spirito Santo e divenire capaci di entrare nell'atmosfera di Dio, di pregare con Dio. Qual è questa scuola nella quale egli mi insegna a pregare, viene in aiuto alla mia fatica di rivolgermi in modo giusto a Dio? E la prima scuola per la preghiera, insegna il Papa, è la parola di Dio, la Sacra Scrittura. È un permanente dialogo tra Dio e l'uomo, un dialogo progressivo nel quale Dio si mostra sempre più vicino, nel quale possiamo conoscere sempre meglio il suo volto, la sua voce, il suo essere, e l'uomo impara ad accettare di conoscere Dio e a parlare con Dio. E poi segnalava che un'altra strada maestra è la liturgia, in modo particolare l'Eucaristia, un'altra fonte, no, per lasciarsi prendere da Cristo e poterlo guardare. Quarto quadro, lo chiamerei così: Giuseppe e Maria non sono soli. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Maria e Giuseppe si stupivano di come Dio li stava seguendo e aiutando, con normalità e nello stesso tempo con potenza grande. Desiderano imparare tutto sul loro figlio. Non si ribellano di fronte alla scelta di Dio di servirsi di messaggeri inaspettati, angeli, pastori, magi venuti dall'Oriente, anziani frequentatori del Tempio. Non hanno preteso, Giuseppe e Maria, di essere destinatari esclusivi della buona novella, né pretendono di essere loro stessi a dirlo a tutti. E neppure si dispiacciono di essere oggetto di attenzioni altrui che li confermano nella divinità della loro missione. Vedono anche in questo la misericordia divina e la lodano. Io vedo in questo stupore, no, di Maria e di Giuseppe questa umiltà straordinaria, grandissima, per cui loro sono proprio contenti di sentirsi parlare della grandezza di questo figlio divino che hanno ricevuto. O Dio, che hai procurato di non lasciare soli nel loro cammino di fede Giuseppe e Maria, fa che anche noi troviamo nel nostro cammino fratelli e sorelle che siano come padri e madri della vita cristiana. Fa che, aiutati da loro, ci impegniamo a contemplare la vita di Cristo con lo stupore di Maria e del suo sposo. È l'aiuto fraterno, l'aiuto che abbiamo nella Chiesa, l'aiuto della direzione spirituale, l'aiuto di esempi, l'aiuto di genitori. Ecco, e le persone che già sono, non come Maria e Giuseppe, che evidentemente sono inarrivabili nella loro santità, ma sono già cristiani, sono già in un cammino di santità, hanno già una vocazione specifica ricevuta dal Signore, anche loro hanno bisogno di avere padri e madri che li aiutano nella fede. Infatti io ricordo in questo momento che, essendo io qui a Milano, ho letto con molto piacere la lettera del Cardinal Scola proprio per l'anno della fede, alla scoperta del Dio vicino, e alla fine, nei quattro ambiti importanti di persone che possono crescere nella fede in questo anno, c'è la famiglia, ci sono i giovani, c'è il mondo in cui viviamo con la sua complessità, però ci sono anche, segnala il Vescovo di Milano, i sacerdoti e i religiosi, religiose, cioè anche noi sacerdoti abbiamo, dice il Cardinale Scola, possiamo avere problemi nella fede, essere tentati, avere prove per tutta la complessità della nostra vita, e quindi possiamo intraprendere quest'anno della fede con un desiderio di grande conversione e con la disponibilità a lasciarci aiutare. Il quinto quadro lo potrei chiamare così: morire e risorgere, la spada affilata della parola di Dio. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Il desiderio profondo di Dio è che per ciascuno e per tutti, grazie all'opera della redenzione, avvenga la rovina dell'uomo vecchio segnato dal peccato e risorga l'uomo nuovo rigenerato dalla grazia. Il desiderio profondo di Dio è che, davanti a Gesù bambino, a Cristo crocifisso e risorto, i pensieri del cuore di ciascuno siano svelati nella conversione a Lui. Per questo Maria si rende disponibile per essere la madre di tutti nell'ordine della grazia, e la spada affilata della parola di Dio ne trapassa tutta l'anima, tutta la vita, e la rende madre di noi suoi figli. Padre Santo, che hai benedetto Maria, Madre di Cristo, con le parole di Simeone, profeta, a prendere la strada ad essere madre di tutti i tuoi figli, come una nuova Eva, concedici per la sua intercessione materna che sia distrutto in noi il peccato e di risorgere per sempre a vita nuova. Tra l'altro, a proposito di Maria Madre, mi veniva in mente, anche se forse è una cosa che tutti sanno, ma che quest'anno della fede che comincia l'11 ottobre, perché ricorda che l'11 ottobre del 62 cominciò il Concilio Vaticano II, ma perché proprio l'11 ottobre? Perché allora, nella liturgia di allora, era la maternità di Maria, era la festa della maternità di Maria. E allora il Papa di allora, Giovanni XXIII, penso che volesse mettere sotto la protezione di Maria quell'assise di tutta la Chiesa, e anche adesso che il Papa voglia mettere in modo più implicito, dal punto di vista della data, che liturgicamente non è festa adesso, però sempre sotto la protezione di Maria, questo anno della fede nel quale noi possiamo pregare la Madonna nel nostro rosario, nel mese del rosario, perché molte persone tornino alla fede, e anche tutti noi che viviamo nella fede possiamo riscoprire la fede e avere dal Signore la grazia di un enorme aumento della fede per vivere una nuova Pentecoste che il Signore desidera per l'umanità e per la Chiesa di oggi. Allora, il sesto quadro lo chiamerei, che è quello che riguarda la profetessa Anna, servire Dio notte e giorno. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. A me viene in mente che in questo quadro della presentazione del Signore al Tempio c'è una partecipazione di tutte le età della vita. Ci sono gli anziani che hanno un compito importantissimo e meraviglioso nei confronti di questi giovani genitori, possiamo dire così, e nei confronti dei più giovani, che molto spesso sono i loro nipoti, no? E è molto bello vedere che nel Nuovo Testamento e nella Bibbia tutte le età della vita hanno una grande importanza proprio in relazione alla redenzione. Io scrivevo così nel mio libro: Anna serviva Dio con la preghiera, il digiuno e il lavoro, si rendeva utile per tutti i servizi più piccoli e umili necessari per il tempio e il culto di Dio. Dio la premia per la sua costanza e la sua dedizione, predilige quel lavoro nascosto ed efficace. 84 anni è pronta e giovane di spirito, racconta subito ad altri ciò che Dio le ha fatto vedere. Dio Padre Onnipotente, che hai premiato Anna facendole incontrare il bambino che è il Salvatore, e così l'hai chiamata ad essere annoverata tra i tuoi primi apostoli. Aiutaci a ricordare sempre che gratuitamente dobbiamo dare ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto. Io facevo questa annotazione pensando che lei poi parla a tutti, no? Di questo bambino che ha visto, senza nessun problema, senza nessun rispetto umano, senza nessuna difficoltà. E possiamo anche notare che fa capolino nel Vangelo una figura che forse potremmo considerare minore, non sono riferite le sue parole letterali, però possiamo anche dire che anche qui, come nel caso appunto della vicinanza di Maria e di Giuseppe, no? Che ha voluto il Signore per il suo bambino, ecco, la presenza di un padre e di una madre, anche in questo caso i profeti che vedono Gesù e che lo annunciano sono un uomo e una donna, è tutta l'umanità che ha la stessa dignità davanti a Dio. Ecco, il Signore ha voluto che notassero il bambino, lo scoprissero, lo riconoscessero, e possiamo quindi ciascuno di noi, uomini e donne, riconoscersi in loro come predecessori di questo compito apostolico che tutti abbiamo per il battesimo, di parlare di Cristo, far conoscere Cristo ai propri vicini, agli amici, ai parenti, ai conoscenti, a coloro che anche incontriamo in modo occasionale, ai colleghi del nostro lavoro. È bello anche vedere come Dio è grato per il servizio ricevuto e forse fa ad Anna quel regalo che fa poi anche alla Maria di Betania per la sua unzione, no? Ecco, non è questa donna, dovunque sarà letto il Vangelo, sarà annunciato il Vangelo, si dirà quello che lei ha fatto quel giorno, no? E anche oggi parliamo di Anna, no? Come il Dio dà tanta importanza anche ai piccoli servizi nascosti e poi in qualche caso li premia in questo modo, no? E l'ultimissimo quadro, settimo, vita contemplativa di Cristo nella normalità. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Hanno presentato Gesù al Tempio per consacrarlo al Signore. Hanno offerto in riscatto per la purificazione della madre una coppia di tortore, il sacrificio della gente povera. Giuseppe e Maria, paghi del compimento della legge e ricchi delle nuove rivelazioni sul bambino, tornano alla loro vita normale di lavoro e di relazioni familiari, di felicità e di impegno, di normali difficoltà e di cose belle, di preghiera e di amicizia. Il bambino cresce sotto i loro occhi, come tutti i bambini del mondo. I genitori godono della sua salute e della sua sapienza, che notano nelle conversazioni quotidiane, nelle sue domande e nelle sue risposte. Come tutti i bambini del mondo, uguale a loro in tutto, con una sapienza e una grazia particolare però, e nessun peccato. O Padre, pieno di sapienza e amore, che hai stabilito che il tuo figlio Gesù fosse veramente uomo, uguale a noi in tutto tranne il peccato, concedici per intercessione di sua madre e di San Giuseppe, che sappiamo contemplare il suo volto di bambino, di adolescente e di uomo, tutti i 30 anni, no? della vita nascosta, per unire la nostra umanità alla sua ed essere così partecipi della sua divinità. Per Cristo nostro Signore. È molto bello vedere la normalità e l'umanità di Cristo che vive una vita come la nostra e che cresce, ha voluto essere come noi anche in questo, dal punto di vista umano cresceva e si fortificava. È un bel esempio per noi, anche per vedere positivamente quello che noi lungo tutte le età della vita ci accorgiamo a volte che abbiamo bisogno di crescere ancora, ed è normale che sia così, è giusto che sia così, è bello che sia così, non ci dobbiamo scoraggiare. Gesù stesso è cresciuto sempre dal punto di vista umano, dal punto di vista di Dio, non c'era una possibilità di crescita o di miglioramento. Ma e allora anche in questo è per noi modello, esempio, incoraggiamento, e noi allora possiamo convincerci che dobbiamo sempre, anzi possiamo sempre imparare lungo tutta la vita. La nostra formazione cristiana non finisce mai. Ecco, allora affidiamo la nostra crescita, anche la nostra crescita nella fede, nella capacità di vivere con devozione il Santo Rosario, e in modo particolare questo mistero che anch'io ho riscoperto, dovendomi un po' preparare per parlare questa sera, con tanti risvolti belli e nuovi, e che sicuramente saranno, tutti gli ascoltatori potranno trovarne molti di più nella loro personale e comunitaria preghiera del Santo Rosario. Ecco, a questo punto io ho concluso. Benissimo, caro Don Andrea, è stato bellissimo, anche questa volta come sempre, e ci hai molto aiutati a entrare in questo mistero, e quindi ci risentiremo poi verso la fine del mese del Rosario per l'ultimo mistero della gioia. Della gioia. Sono 20, quindi ci abbiamo tanto tempo davanti. Abbiamo tempo per incontrarci ancora, sì. Moltissimo, eh.